Ci sono riflessioni che ci toccano profondamente al punto da avere il potere di cambiare o di dare un indirizzo tutto nuovo alla nostra vita. Ne trovai una sul foglietto di un calendario cristiano del 1974 e nonostante avessi fatto 2 traslochi e più volte messo in ordine la mia libreria buttando via tante cartacce ormai inutili o vecchie, non ero incapace di liberarmi una volta e per sempre di quel foglietto che dopo più di 30 anni ritrovai sulla scrivania davanti ai miei occhi. E così, dopo matura riflessione, ho pensato che prima di buttarlo via valesse la pena di copiarne il contenuto e tenerlo fra le cose più care. Nulla di particolare, nessuna rivelazione nuova, nessun segreto, ma molto probabilmente dopo 10 anni dalla mia scelta di affidare completamente la mia vita a Cristo, il contenuto di quel foglietto mi ha profondamente scosso, ed ora, a distanza di tanti anni, si è rivelato quanto sia vero nella sua drammaticità. Sul foglietto si trovava scritto quanto segue. Parecchi anni fa un'incresciosa notizia si diffondeva improvvisamente fra gli amatori di corse da cavalli. Il più celebre e il più abile fantino inglese si era suicidato. Aveva appena 29 anni. E già aveva riportato dei premi in 2749 corse. Lasciava una fortuna di parecchi milioni, guadagnati in 10 anni. Il suo nome era un tegno di fortuna. Nessun fantino riuniva in sé come lui il coraggio, l'audacia e la conoscenza del cavallo. Si era sottoposto al regime più severo per diminuire costantemente di peso e consacrava tutto il tempo che non passava sul dorso del cavallo per dimagrire. Stava appunto seguendo un regime speciale quando colto da un eccesso di febbre cerebrale, durante il quale pose fine ai suoi giorni. Aveva raggiunto lo scopo che si era prefisso per la propria esistenza, quello di guadagnare premi e denaro. Non si prefiggeva che questo ed era riuscito nell'intento. Era in relazione con persone eminenti, era invidiato da molti, però, malgrado tutti gli applausi ricevuti e tutte le vittorie riportate, ha mancato allo scopo. Vi figurate quest'uomo, trasportato subito alla presenza di Dio per poi rendergli conto della sua vita? Che cosa sono in quel momento le sue vittorie, le sue corone, i suoi milioni, tante spazzature? Egli ha vinto il premio alle corse, ma ha perduto il premio della corsa. Ha guadagnato delle corone, ma ha perduto la vera corona. Quante persone corrono così sopra una cattiva strada, la via larga che conduce alla perdizione eterna. Cercano di superarsi gli uni gli altri, sacrificano tutto per raggiungere il loro scopo. Corsa ai piaceri, corsa al denaro, corsa alla gloria, corsa alla vanità, corsa al lusso. Fanno a chi giungerà prima, a chi supererà gli altri, se già non soccombono per strada, se già non sono stritolati nella loro corsa folle. Che terribile delusione aspetta tali persone allorché, giunte alla fine della corsa, penseranno di ottenere il premio. Erano al culmine della prosperità. Sembrava che non potessero salire più in alto. Ma ecco che il cuore cessa di battere e il respiro s'arresta sulle labbra. Il velo che le separava dal mondo in visione si squarcia. Dio riprende i suoi diritti. E quella prospettiva, quei piaceri, quella grandezza, quel benessere, sono la maggior miseria morale, il colmo dell'orgoglio, dell'egoismo, della vanità. La vetta raggiunta è il fondo dell'abisso, è l'ingresso all'eternità. Infelici! Si sono ingannati! Sono corsi sopra una cattiva pista, su cui ogni slancio, ogni sforzo li faceva avanzare più presto verso la loro rovina. E nel momento solenne in cui ogni cosa riprende il suo valore reale, non quello che noi diamo, ma quello che Dio dà, s'accorgono che vivere per la soddisfazione dei propri piaceri, dei propri interessi materiali, per la propria vanità, per il proprio egoismo, è una vita perduta. Hanno raggiunto il loro scopo, ma hanno fallito allo scopo, lo scopo per cui Dio li ha messi in questo mondo. Hanno inseguito una felicità irraggiungibile, e hanno perso la felicità eterna. Ed ora diciamo ai lettori di questo foglietto. Per voi, oggi, è ancora tempo di mettervi sulla buona via per il raggiungimento del vero scopo, il solo per cui valga la pena di vivere, il solo che non dia delusione. Dio vi aspetta su questa via di ravvedimento, sulla via della salvezza, per offrirvi mediante la fede nel Signore Gesù Cristo il perdono dei vostri peccati, la riconciliazione con Lui, la pace della coscienza e una eterna felicità. Non respingetela. Domani potrebbe essere troppo tardi. È facile comprendere perché le riflessioni e l'invito di questa meditazione sono ancora validi dopo più di 30 anni, e lo sarà anche dopo 300 o 3000 anni, perché ogni persona, sia maschio sia femmina, giovane o vecchio, ricco o povero, devono fare i conti con ciò che l'aspetta dopo la morte. L'incredulo può anche scrollare le spalle, e il religioso può sentirsi sereno, ma non è possibile ignorare che è molto facile fallire la scopo per il quale Dio ci ha creati nella stessa maniera in cui è facile tra 10.000 palline sbagliare. Errare fa parte della nostra umanità, e questo lo sappiamo, perché allora si prendono le cose che appartengono a Dio come se fosse ovvio non fare errori in questo ambito. Perché per non fare errori nella vita siamo prudenti. Controlliamo, verifichiamo, mentre nel campo spirituale non usiamo gli stessi metodi. Occorre prendere sul serio la necessità di considerare lo scopo o le ragioni per le quali viviamo o agiamo, perché la parola di Dio avverte che verrà il giorno nel quale Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, RM 2:16, e poiché non vi è nulla che sia nascosto se non per essere manifestato, e nulla è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce, MR 4:22. Questa verità dovrebbe produrre terrore negli increduli e un profondo santo timore in chi ha posto fede in Cristo, e per comprendere quanto sia seria la cosa è sufficiente pensare alla possibilità che ogni creatura di questo mondo un giorno verrà a conoscenza delle cose delle quali ora ci vergogniamo. Fino a pochi anni fa forse una simile idea poteva far sorridere, ma alla luce della tecnologia di oggi possiamo comprendere che molte cose ritenute impossibili possono diventare realtà. Possiamo prendere come esempio la televisione o il cinema, nelle quali è possibile vedere persone che non esistono più. Infatti attori e protagonisti del grande e piccolo schermo si possono vedere e sentire parlare, anche se ormai nella tomba sono diventati polvere. In merito ho visto in televisione un programma che mi ha veramente scioccato, anche se ormai si è abituati a queste cose. Il programma era centrato sul ricordo del grande cantante italiano Claudio Villa, scomparso da anni, e in diretta sua figlia cantava le canzoni di suo padre con una bravura veramente straordinaria. Ad un dato momento, con una sovrapposizione televisiva, fecero vedere accanto a sua figlia Claudio Villa, che cantava la stessa canzone, in modo tale da sembrare che padre e figlia sul momento cantassero assieme in diretta. Ora, se noi esseri umani abbiamo inventato strumenti che sono in grado di far sentire e vedere al presente persone, cose ed eventi della vita ormai passati, non è forse capace il Dio Trino, che ha creato ogni cosa, di registrare ciò che succede e poi farlo vedere al momento opportuno nel giorno del giudizio? E se Dio mostrerà ad ogni essere umano la nostra vita, non mostrerà forse anche le cose delle quali noi oggi ci vergogniamo? E se noi ci vergogniamo perché qualcuno è venuto a conoscenza di certe cose, quale sarà la confusione e la vergogna quando ogni creatura umana e celeste vedrà e conoscerà cose ripugnanti e schifose della nostra vita? Personalmente non vorrei essere al posto degli increduli, e questo perché, avendo posto fede in Cristo, ho ricevuto la promessa che ogni mio peccato confessato e abbandonato è stato perdonato, cancellato e, più che questo, non verrà mai più ricordato, GR 31.34, e di conseguenza non sarò più svergognato, IS 50.7. Fallire allo scopo per il quale siamo stati creati è il più grande dramma di qualsiasi essere umano, credente o incredulo che sia, e questo lo possiamo comprendere anche solo prendendo coscienza della realtà intorno a noi. Se un cane potesse e volesse portare dei pesi come un mulo, se impiegasse tutta la sua vita a diventare forte con degli esercizi, se fosse in grado di portare anche pesi superiori, quanti ne porta un mulo? Se non fa la guardia ai beni del suo padrone, se i ladri scassinano la casa nella quale abita, può avere raggiunto il suo proposito di diventare forte, ma ha fallito allo scopo per il quale è stato creato. Così come l'incredulo scoprirà di aver drammaticamente speso la sua vita, Per niente anche il credente che non ha come fine della sua vita il glorificare Dio, avrà fallito lo scopo per il quale è stato scelto. Gesù disse ai suoi discepoli: «Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga». GB 15 e 16. In questo è glorificato il Padre mio. GB 15, 8. È più che giusto mettere in enfasi la responsabilità dell'incredulo, ma è altresì doveroso far presente a chi ha posto la fede, salvifica in Cristo, che anche lui può fallire allo scopo per il quale è stato salvato. La maggioranza dei credenti si accontenta di una vita senza tanti impegni nel regno di Dio e senza tanti scossoni, prodotti dalla fedeltà alla verità, e lo dimostra il fatto che la parola di Dio sprona del continuo il credente a vigilare per avere il giusto atteggiamento in merito al ritorno di Cristo. Or fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza e dalle preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso. Dillaci 21.34. Se la colpa dell'incredulo è quella di non voler udire l'invito di Cristo, la colpa del credente è quella di ritenere che gli avvertimenti della Scrittura non lo riguardino, e così è in grado di udire per anni la parola di Dio senza che essa produca quel cambiamento che la Scrittura chiama ravvedimento. Ravvedimento e conversione non sono parole rivolte esclusivamente ai perduti, ma esse sono più che mai appropriate anche ai credenti in Cristo, e una continua presa di coscienza della necessità di migliorare e di realizzare una sempre più completa consacrazione a Dio, di vedere il prossimo una sfida per amare. Come disse qualcuno, se non avrete scelto il regno di Dio, alla fine non farà alcuna differenza sapere che cosa abbiate scelto al suo posto. Giugno 2005. Ellero.